Siamo il Comitato Acqua Pubblica di Capena e anche il coordinamento Acqua Pubblica Valle del Tevere e Parco di Veglio. Abbiamo partecipato alla manifestazione di questa mattina perché il discorso dei rifiuti è strettamente legato al discorso dell'acqua. E sappiamo che le imprese, le ditte che vogliono speculare sui rifiuti sono le stesse che speculano sull'acqua. Il problema poi dell'inquinamento e delle discariche che finisce nelle falde acquifere, poi in particolare abbiamo il Tevere a poche centinaia di metri dalla discarica che vorrebbero fare a Riano. Ovviamente noi dell'acqua siamo estremamente preoccupati e interessati al problema delle discariche. Senti, che cosa potrebbe succedere in concreto se questa discarica in futuro dovesse aprire, anche da un punto di vista tecnico? Ma da un punto di vista tecnico, innanzitutto le discariche non sono sicure. Qua a Riano, per esempio, c'è la falda acquifera che è a pochi metri dalla superficie, c'è il Tevere che è a poche centinaia di metri, quindi tutti i rifiuti e il percolato che si crea dalla discarica andrebbe a finire nell'acqua, che poi dopo va direttamente a Roma. Quindi non è solo un problema della provincia nord di Roma, ma sarebbe un problema di Roma stessa. Ho capito, peraltro ci sono già problemi di questo tipo sia dalle vostre parti che anche più a nord senza la presenza di discariche, quindi questo andrebbe a peggiorare ulteriormente. Sì, questo è un problema appunto che andrebbe a aggravare ancora di più una situazione, perché il discorso dei comuni qua della zona che solo alcuni diciamo fanno una raccolta differenziata porta a porta, e quindi tutti gli altri comuni conferiscono in discarica i rifiuti, e quindi è un problema serio che come Comitati dell'Acqua stiamo seguendo, oltre ovviamente alla campagna di obbedienza civile che è partita proprio il mese di gennaio. Ci la puoi raccontare meglio questa campagna che è partita da poco? Sì, gli italiani il 2 e 3 giugno dell'anno scorso hanno votato due quesiti referendari sull'acqua. Il primo per evitare appunto la privatizzazione forzata del sistema idrico e il secondo è per la remunerazione del capitale investito. Ora con il governo Monti innanzitutto ha riproposto la privatizzazione, cioè sotto la forma di liberalizzazione dei sistemi pubblici, compresa l'acqua, grazie a una mobilitazione dei comitati dell'acqua in tutta Italia. Questo dal decreto ieri è stato stralciato l'articolo relativo all'obbligatorietà di privatizzazione del sistema idrico. Mentre il secondo quesito, cioè quello che prevedeva l'abbattimento della remunerazione del capitale investito, cioè quel famoso 7% che noi troviamo sulla bolletta, ecco, quel quesito non è stato né proprio preso in considerazione né dai gestori né dalle forze politiche, per cui gli italiani hanno deciso che in obbedienza alle leggi di questo paese provvederanno all'autoriduzione delle bollette di quel 7%, che poi in realtà quasi sempre è una percentuale che oscilla tra il 10 e il 20% dalle proprie bollette. Ho capito, va bene, questo oltretutto lo diciamo noi, sono iniziative che si stanno portando avanti anche fuori dal vostro comprensorio. Senti, vicino a te ci sta anche qualcuno del Comitato Rifiuti, credo, no? Sì, c'è qualcuno del Comitato Rifiuti, adesso te lo passo subito. Grazie e buona trasmissione. Grazie a te, in bocca al lupo per tutto, ovviamente. Ciao. Ciao. Pronto, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, volevamo... Sono Gianluigi Barone per SOS Discarica. E per alcuni aspetti tecnici volevamo dirvi come stanno le cose. Di fatto abbiamo delle direttive europee che sanciscono che le discariche devono essere l'extrema ratio, e queste direttive europee il nostro paese le disattende da ormai 12 anni con un'estrema incapacità di avere una politica dei rifiuti che sia in linea con le direttive medesime, e con il risultato che sappiamo tutti, cioè per esempio che Malagrotta, la gestione dei rifiuti a Malagrotta è stata oggetto di sanzione economica da parte della Unione Europea proprio per come viene gestito il rifiuto. Posso anche dire, la cosa è arcinota, che nell'ultimo piano dei rifiuti approvato recentissimamente alla Regione Lazio, si dice che Roma entro il 31 dicembre di quest'anno raggiungerà il 65% di raccolta differenziata, è un dato che è fantascientifico perché oggi Roma è ferma al 20%, e con il risultato peraltro documentato dallo stesso commissario delegato in un'audizione che ha fatto alla commissione bicamerale per i rifiuti e contro le ecomafie, lui stesso dice che a Roma oggi, o per meglio dire a Malagrotta oggi, vengono sversate ancora circa 3.000 tonnellate di cosiddetto rifiuto tal quale, il quale tal quale, sempre in base alle direttive dell'Unione Europea, non può essere sversato nelle discariche. Questo avviene sotto la luce del sole e ci vengono a dire che pur non essendoci mezzi per poter fare una discarica, per meglio dire per poter trattare i rifiuti ed evitare che siano conferiti in discarica il tal quale, oggi la situazione a Roma è questa, cioè non è possibile farlo perché non ci sono i mezzi. Nonostante questo si dice che queste discariche di Riame, di Corcolle, si vedrebbero miracolosamente vedere non conferito il tal quale. Voi capite che è una situazione che è assolutamente poco realistica, reale, utopistica, che viola la normativa, e noi ci troviamo a contrarci, e lo facciamo volentieri però, perché i nostri diritti non possono essere calpestati, e ancor peggio, non c'è nulla di peggio che la politica che prende in giro i cittadini, e lo fanno a tutti i livelli, e anche questo della discarica ne è la cartina di tornasole. Senti, molto sinteticamente, se domani dovesse essere aperta la discarica lì da voi, quali sarebbero le conseguenze immediate per tutto il vostro comprensorio? Perché sento malissimo. Se domani venisse aperta la discarica, diciamo per ipotesi, le conseguenze per il territorio immediate, quali potrebbero essere? Le conseguenze sono terrificanti, perché esistono documentazioni scientifiche che, ci tengo a dire, non sono partigiane, sono scientifiche appunto, che sono alla portata di tutti grazie a quelli che sono i canali massmediatici, mi riferisco in primis a internet, che documentano la nocività delle discariche, per me, e non soltanto delle discariche, ma soprattutto delle discariche dove venga conferito il cosiddetto tal quale. E aggiungo che dal punto di vista altresì scientifico è certo che allorquando una discarica, in una discarica venga conferito il cosiddetto tal quale, cioè il rifiuto, ripeto, non trattato, cosa che viola una normativa europea che il nostro paese ha recepito già nel 2003, la normativa europea peraltro era del 99, questo significa che quando nella discarica viene sversato il tal quale, inevitabilmente, per quanto uno possa confezionare dei meccanismi e dei tessuti che tentino di impermeabilizzare il terreno sottostante, nonostante questo, nell'arco di alcuni anni questi tessuti impermeabilizzanti vengono lesi, sia perché, mi riferisco in questo caso a Riano, il territorio sottostante non è, per quanto possa essere compattato, è soggetto a smottamenti, sia perché comunque questi tessuti sono soggetti agli agenti atmosferici e alle stesse lesioni che gli induce il percolato, con il risultato che questo arriverà prima o poi a una falda, che nel caso specifico, parlo di Riano sempre, è già affiorante, e verosimilmente tutto questo finirà nel fiume Tevere e conseguentemente nel mare, senza contare quelli che sono poi i rischi immediati e diretti per la salute della comunità dei residenti. Non è un caso che l'Unione Europea dice che il conferimento in discarica deve essere l'extrema ratio, peraltro secondo l'Unione Europea questo conferimento deve avvenire sempre e comunque con un rifiuto trattato, cioè un rifiuto che non possa danneggiare l'ambiente e la salute. Quindi l'Unione Europea ci dice: non fate le discariche, se proprio le dovete fare ci dovete conferire solo rifiuti che non nuociano all'ambiente e alla salute. In Italia facciamo le discariche e ci conferiamo rifiuti che possono nuocere all'ambiente e alla salute. Vi rendete conto da soli che quali possono essere i rischi, ripeto, e da questo punto di vista, senza senza sostituirmi a persone ben più autorevoli di me, basta andare a vedere che cosa significa, quali sono i rischi per la salute e per l'ambiente dell'esistenza di una discarica. Senti, l'ultima cosa che volevamo chiederti, dopo la mattinata di oggi, quali sono le altre iniziative in programma per quanto riguarda il vostro comitato? Dunque, se ho capito bene la domanda, perché purtroppo sento molto piano, oggi abbiamo fatto questa manifestazione qui a Riano. Il mercoledì 25 gennaio alle ore 18 verrà sempre qui a Riano, nella sala riunioni di via Taddeide, padre Alex Zanotelli, che come è noto è un missionario molto attivo e soprattutto molto vicino alle esigenze della cittadinanza, e colui già in passato ha seguito le vicende sciagurate della discarica di Serre, duplicemente sciagurate, perché anche in quel caso i comitati dei cittadini si batterono con fermezza contro questa discarica, trovando peraltro anche l'appoggio della magistratura ordinaria, che infatti bloccò in seguito alle iniziative di costoro la costruzione della discarica. Poi però vi fu intervento della Cassazione che praticamente sospese gli effetti di questi provvedimenti giudiziali, con il risultato, ve la faccio breve, per cui a maggio di quest'anno è uscito fuori sui giornali che laddove è stata costruita la discarica a Serre ci sono dei tassi di inquinamento terrificanti, con gravissimi rischi per la salute dei residenti e per lo stesso ambiente. Quindi tutti quanti vorremmo che più numerosi siamo, il 25 gennaio alle 18 e meglio è, potremo sentire anche dalle parole di questo missionario qual è la situazione di luoghi dove questo stesso problema, ahimè, è già stato affrontato, non risolto, e con il risultato, ripeto, di aver creato un'ulteriore bomba ambientale.